indicator questo mare busillaca, che ogni notte mi sente cantare. Piscator, sti parole son lacrime per Maria che lontana mi sta. Dormo ma è poca voca, tutte pace attorno a me. Ma perché me lasciate mentre muore stanotte per te? Zitto i cor, canter busillaca, vega nombre che segni mi fa. Una manella e una voce mi chiamano fra sti bracci, Maria, vo tornare. Dormo ma poi bella piena c'è la luna sai e va. Vita mia, mi va bene, casi e suon non farmi uscire. Casa can casa gross. Ma perché me l'ha lasciato mentre mo stanotte per te. Ah, mentre mo stanotte per te.